Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Tra un'ora la via all'Ecofin a Bruxelles. Tema centrale sarà la Grecia, ma è anche una nuova occasione per il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan di confrontarsi con i commissari Dombrovskis e Moscovici in vista della presentazione del documento economico italiano il 17 ottobre. Tra Roma e Bruxelles si tratta in un clima ancora di braccio di ferro. Poco fa, come avete sentito, a Bruxelles a parlare proprio Moscovici. Consapevole ha detto che per l'Italia ci sono state condizioni eccezionali. La Commissione è più che disponibile alla flessibilità per casi particolari, come possono essere migrazione e terremoto, ma aggiunto confidiamo che l'Italia continui seriamente il programma di rientro del deficit senza cedere ad una flessibilità senza regole perché, aggiunto ancora Moscovici, per resistere ai populismi bisogna avere le regole e le regole vanno rispettate da tutti. E questa mattina il premier Renzi non ha mancato però di mandare l'ennesima stoccata all'Europa economica. Perché in questi anni in cui l'Italia è stata assente o quasi nel dibattito politico europeo, cos'è accaduto? Che l'Europa si è inaridita, che ha pensato soltanto al confine orientale, che si è messa a discutere soltanto di algide regole tecnocratiche e burocratiche e ha fatto delle regole finanziarie nel silenzio talvolta colpevole del nostro Paese, tutte finalizzate a difendere gli interessi di una parte di quel di quei paesi che stanno dominando l'Unione Europea. Domani ci sarà una nuova riunione dell'Eurogruppo, ma oggi, dicevamo, il tema centrale sarà invece la Grecia. Valeria De Rosa. Sì, Anna, buon pomeriggio. Allora, lo sentivate, tema centrale la Grecia. Oggi quello che è in programma è lo sblocco di una ulteriore quota da 2,8 miliardi, che è una parte degli 86 previsti dal terzo piano di salvataggio per la Repubblica Ellenica. Questo è quanto chiede Atene, Atene che oggi porta sul tavolo dell'Eurogruppo la privatizzazione delle municipalizzate, quindi all'interno di un nuovo fondo per le privatizzazioni sono confluite la municipalizzata per l'acqua e per l'energia. Diciamo che questo era l'ultimo baluardo per Alexis Tsipras da difendere per quel che riguarda la Grecia, ma anche questo è accaduto, quindi tendiamo a pensare che quello sblocco dei 2,8 miliardi oggi arriverà senza problemi. Grazie anche a Valeria De Rosa. Europa intanto in soccorso ad Haiti. Dopo l'uragano Matthew, la Commissione ha sbloccato 1,5 milioni di aiuti d'emergenza. Sono già arrivati sull'isola i primi esperti del meccanismo di protezione civile europeo. Altri arriveranno nei prossimi giorni. E un dato, come viaggiano gli europei? Ebbene, nel 2015 in Europa 900 milioni si sono spostati in aereo. I timori legati al terrorismo islamico, che ha messo in ginocchio diverse città europee negli ultimi 2 anni, non sembrano aver fermato la voglia di viaggiare dei cittadini dell'Unione. Nel 2015 più di 900 milioni di persone hanno scelto l'aereo per muoversi in Europa e nel mondo. Rispetto all'anno precedente si registra un aumento del quasi 5%, dovuto principalmente alla crescita degli spostamenti all'interno dell'Unione. Infatti, quasi il 50% dei viaggiatori prende l'aereo per una destinazione europea, mentre il 35% vola per uscire dal continente. Solo un passeggero su 5 invece si muove in cielo per raggiungere mete nazionali. Tutti i 30 principali aeroporti europei hanno visto aumentare il numero di passeggeri in transito. Gli scali più trafficati rimangono London Heathrow, Parigi de Gaulle e Francoforte. L'unico scalo che invece ha visto scendere i propri numeri è quello di Milano Malpensa, che rispetto al 2014 ha avuto un calo di più dell'1%. Andrea Siravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, ancora un saluto da Anna Migliorati. L'Europa però vi aspetta, come sempre questa sera, effetto notte. Già vi anticipo, parleremo di clima. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.